and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Oh, oggi è venerdì, eh? Tempo di bilanci. Domani seconda si va in settimana. Bilanci. La vacanza, no? I bilanci. Ma no, ma qui siamo su Radio 24, non fanno altro che sentire bilanci dalla mattina alla sera, parla d'altro, no? Vacanza, weekend. Ma che weekend? Allora, si parla di Chiedo Asilo, cioè il programma in cui gli adulti diventano bambini. Sì, ma anche il contrario. Anche il contrario. In questo caso sì, perché parliamo del genio Aran Fernandez, quello che entrerà a Cambridge alla facoltà di matematica all'età di 15 anni senza aver mai frequentato un solo giorno di scuola. Io l'ho sempre detto che la scuola non serve a niente. Sì, però lui ha fatto tutto a casa privatamente, quindi... Ah, con un insegnante privato, un tutor. Sì, no, in realtà no. Tito, sta bravo. In realtà non era un insegnante privato quello che aveva lui aveva degli alunni privati, cioè lui insegnava. Ma come? Sì, il ragazzino Fernandez era sempre più intelligente dei suoi maestri, per cui alla fine era lui che insegnava e i maestri che imparavano. Una specie di scambio, no? Comunque guarda, adesso a Cambridge appena arriva... Cosa? Lì lo massacrano per bene. Ma in che senso? Anzi, lo accoglieranno benissimo. Ma cosa dici? Pensa come sta simpatico a tutti gli studenti normali, sto qua di 15 anni che arriva, io so tutto, so tutto. Tu pensi io che so gli tutto. Fanno tipo la schiuma da barba mentre dorme? Ma speriamo, perché gli starebbe bene. Dai. E anche i professori lo massacrano. No, i professori sono tutti lusingati di avere una simile celebrità alle ma loro lezioni. Ma secondo te, tu studi tutta la vita per diventare professore a Cambridge, eh? E poi arriva lì, tacco, uno di 15 anni che fa il saputello, ti frega il mestiere. È un caso speciale, un caso eccezionale. Ma guarda che non si fa così nelle università. Bisogna affrontare una trafila precisa. Sì, eh? E certo, a Natale, ad esempio, non ti devi dimenticare di regalare il room che costa un occhio della testa al tuo docente di riferimento. Ah, come l'editore di riferimento di Bruno Vespa. Ma scusa, cosa c'entra? Uno che è un genio lo si fa lavorare subito, gli si dà subito la laurea, gli si dà anzi bravo, una cattedra. Cosa c'entra il room? Sì, bravo, cosa c'entra il room? Ma da dove arrivi? E poi ti laurei, poi devi sperare nel dottorato, 1.000 euro al mese. Poi se va bene ti danno un posto di ricercatore. Insomma, verso i 60 anni o 65 forse puoi fare l'assistente a furia di bottiglie di room. Ah, dai. Scusa, ma se uno ha il professor Astemio... Ecco, vedi, il tutor ci segnala che siamo andati fuori tema. Sì, quindi lo so, torniamo al tema principale, cioè i geni, i ragazzi prodigio, i bambini prodigio. Noi qui in Italia, ad esempio, non ne abbiamo tanti, però mi viene in mente che abbiamo Mario Balotelli, che è giovane, quindi dici? È una specie di bambino. Ma un che prodigio è? È ma cosa prodigio. Stai dicendo? Stiamo parlando benissimo. Di QI, di intelligenza. Questo qua va a fare matematica a Cambridge, tu mi parli di Balotelli che dà i calci al pallone. Tanto guarda, Balotelli quest'anno ha preso la sua bella maturità, è diventato ragioniere, quindi anche un po' di matematica magari la mastica, non dico a Cambridge, certo. Però. L'ha preparata bene la maturità. Il giorno prima l'han beccato in centro a Milano che sparava con una scacciacani. Appunto, è un bambino, lo dicevamo prima, un bambino prodigio. Per il calcio è un secondo bambino. Secondo me non sa neanche le tabelline. Vabbè, proviamo a chiederglielo, no? Bambino Balotelli. Bambino Balotelli, scusa, vieni qua un attimo. Comandi? Ecco, bravo. Allora, vediamo, dimmi la tabellina del 4. Beh, c'è 4-3-3 quando siamo tre punte. Poi c'è 4-4-1-1, sono unica punta. Ma se mister mi fa giocare unica punta, io sono ma anche cos'è? Abbastanza contento. Beh, sì, sono poi gli schemi 4, tattici. 3, 2, quando 1, c'è Eto solo davanti, poi il Balotelli deve tornare. Quale matematica? Questo qua sa pensare solo al calcio. Ma pensa anche a Miss Emilia Romagna. E poi c'è 1-4-4 che risponde quella che dice le porcate, che dice... Più 3 più 3 3 più 3 più 3 3 pulcini 3 pulcini Pio pio pio 3 anatrini 3 anatrini Qua qua qua 3 gattini 3 gattini Miau miau miau Pio pio pio Qua qua qua Miau miau miau 3 pulcini 3 pulcini 3 anatrini 3 anatrini 3 gattini 3 gattini All'ombrello perché piove 3 più 3 più 3 fa 9 3 più 3 più 3 più 3 fa 9 No, fa 12 Ricreazione, vai. Vabbè, vai. Stavolta K vai pure a giocare. Ah sì? Sì, sì, sì. Ma come? E l'intervista te la cuzzi tu? E là? Te la cuzzi tu. Ma come parli? Come parla? Le parole sono importanti. Come parla? Ecco, hai fatto incazzare il bambino Nanni. Devi usare termini appropriati. Allora io vado, va? Mi dai la sigaretta? Vai, tieni la sigaretta. Tanto non puoi fumare. Non offrirla in giro. Fumo io, no? Vabbè, dai, allora adesso vai a giocare. Intervisto bambino Albertino. Oh, Alberto. Ma Bambino Alberto. Sì. Non Albertino. Che poi questo qui non è mica un programma radio? Sì. E allora Albertino mi sa che è un nome da evitare, no? Per non creare confusione. Prago! Cosa c'è? Prago! Mi hanno rubato la fionda! E tu rubala un altro, no? No, ma Albi, cosa dici? Ma se un bambino ti ruba la fionda devi subito andare dall'insegnante a dirglielo, non rubarla un altro. E bravo, così alimenti il mercato degli spioni. Ma quali spioni? Così si insegnano i concetti di giustizia e di autorità, altro che spioni, dai. A proposito di giustizia. E il grano? Ma basta con sto grano! Prago! I bambini mi tengono in disparte! E tu minacciali, no? E poi gli dici che se non diventano tuoi amici li riempi di botte. Vabbè, ma insomma, Albertino, tu non finirai mai a Cambridge a 15 anni come il ragazzino Fernandez di cui parlavamo prima, Cambridge è la città dei Pink Floyd, Sì, ma cosa c'entra? Poi tu che ne sai dei Pink Floyd? Vai all'asilo. Hey! Teacher! Little kids alone. Not allowed to say that. Not a brick in the wall. Vabbè, certo, questa è la canzone simbolo contro gli insegnanti. Peccato che i Pink Floyd si riferissero all'educazione vittoriana, non a quella di oggi dove prolifera gente come te. Educazione vittoriana. Vabbè, dai, ma tu come sei messo a quoziente di intelligenza, Albertino? Che ne so. Sei sopra o sotto i 100? T'ho detto che non lo so. Però sono intelligente abbastanza per capire quando mi si prende per il culo. Ma cosa dici? Il grano? Ma ancora col grano? Finché non mi fai vedere il grano? Niente interviste. Vabbè, cosa fai, lo sciopero della parola? Prago! Oh! Me la son fatta addosso! Albertino, adesso non hai un suggerimento stavolta? Quando sei nella merda, sei nella merda. We don't need no education. We don't need no thought control. Dark heaven in the classroom. Hero, hero, lead it all around. Hey, teacher, lead the kids out. È finita weekend. Bye, si weekend. Spalanca il weekend, però questa settimana, adesso siamo il venerdì, bisogna quindi fare una specie di bilancio, come no, ben ma sai. No, vabbè, bisogna fare il weekend. Stai calmo. Ma no, stai calmo tu, ci sono le mamme che scalpitano, dai. Questa settimana abbiamo inaugurato il nostro talent show. Ah, certo, certo. Kid Factor, che tutti i martedì vi terrà compagnia con le canzoni di Dini e le canzoni di Seba. Quindi voi dovete votare. Andando Dini, sul sito. Votadini. Andate sul sito, vedete anche le foto di Dini e di Seba, quindi decidete anche in base un po' al look, visto che siamo alla radio. Ma che look! E poi dovete mandare una mail all'indirizzo chiedoasilo@radio24.it. Sì, sì, però sicuramente Dini questa settimana è in vantaggio rispetto a Seba perché ha presentato una splendida versione di I Can Get No Satisfaction. Però diciamo che anche il mio Seba non è da meno, con una sua composizione originale, punk, acustica, sul tema della fame, si intitola Go Fame. Go Fame! Go Fame! Così me la magna! Go Fame! Go Fame! Così me la magna! Sì, però secondo me l'arrangiamento con le pentole, non vabbè, so. Vabbè, comunque non dimenticate l'ora di votare per Seba o per Dini. Sì, però aspetta, diciamolo più con la voce da talent show, dai. Bambini all'ascolto, non dimenticate di votare per Kid Factor, Dini o Seba! Sì, però se fai così le mamme si girano. Ah, dici... dici che funziona? No, dico che chiamano la polizia. Torniamo lunedì. E scrivete numerose a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.